Il gastronauta di Davide Paolini. Buon Natale, buon Natale a tutti i gastronauti, a tutti i radioascoltatori. Buon Natale. Beh, oggi è una giornata molto particolare e il gastronauta è qui che trasmette per voi, magari vi dà qualche consiglio. State per andare a pranzo, magari a qualcuno ha anche la radio accesa mentre sta preparando i piatti di Natale. Sento già il profumo, sento il profumo del bollito, sento sedano, sento carote, sento prezzemolo, insomma, sento anche quel grasso dell'esso del bollito, che è un sapore piacevolissimo, almeno per me. Ma sento anche i sapori dei vari bagnetti, il bagnetto rosso, il bagnetto verde, insomma sento allegria. Poi vedo sui tavoli anche un panettone enorme. Bene, il panettone non può mancare, anche perché io senza panettone non saprei vivere nel resto dell'anno, figuratevi voi il 25 di dicembre. Quindi di nuovo buon Natale a tutti, ma oggi io voglio essere un po' d'aiuto a voi che state per andare a pranzo, o magari qualcuno ha già cominciato a spizzichettare qua e là sui tavoli, magari una fettina di salame, una fettina di culatello, insomma, ecco, vedo qualcuno anzi che sta prendendo un bicchiere di bollicine. Attento, non bisogna bere molto, poi non bisogna guidare, mi raccomando, perché altrimenti poi i punti volano. E allora parliamo di vino oggi parliamo di vino, ma anche di birre molto ma molto particolari. Poi vi spiegherò perché, sarà una grande sorpresa credo per i nostri ascoltatori. Ebbene, in mia compagnia ho il campione mondiale dei sommelier, Luca Gardini. Buongiorno Luca, buon Natale a te. Buongiorno a tutti, buon Natale a tutti. Bene, e devo dire, avete sentito, insomma, un ospite d'onore importante per aiutarvi a selezionare i vostri vini, ma magari qualcuno li ha già comprati. Allora, come servirli? Perché è importante anche questo, se servirli a temperatura ambiente, se servirli molto freschi, se aprire prima la bottiglia. Insomma, tutta una serie di consigli che oggi, stasera, domani, nei prossimi giorni, anche l'ultimo dell'anno, facciamo finta anche di arrivare fino all'ultimo dell'anno, arriveremo anche a quei vini. Allora Luca, diciamo, si può bere bene anche con poco. Non è detto che per le grandi feste bisogna prendere dei vini molto impegnativi, molto costosi, vero? No, soprattutto bisogna bere bene spendendo poco in questo periodo. Quindi oggi l'Italia vinicola riesce a dare dei grandi prodotti di qualità, di forte identità, di forte richiamo territoriale, di forte personalità, a prezzi contenuti. Riusciamo a bere grandi bottiglie a prezzi contenuti. Ecco, io voglio già che tu ci cominci a dare qualche esempio. Ad esempio, diciamo che buona parte degli italiani a mezzogiorno del giorno di Natale consuma dei piatti molto, molto semplici, perché c'è il brodo, c'è il bollito, c'è la carne, ci sono gli arrosti. Allora vogliamo cominciare un po' da accostamenti. Ad esempio, chi oggi mangerà brodo coi tortellini o coi cappelletti o con gli anolini? Perché cari radioascoltatori, sapete benissimo che qui anche ci sono delle diatribe: chi vuole i tortellini, chi vuole i cappelletti. Bene, c'è una diatriba molto importante anche tra Modena e Reggio Emilia, tra tutte le città emiliane, tra Bologna e la Romagna, dei cappelletti. Però in fondo rimane un brodo con un ripieno dove dentro sicuramente c'è carne o c'è formaggio, ma quello che è predominante è il brodo. Quindi con che cosa può essere accostato il brodo per avere un ottimo accostamento? Beh, se dobbiamo andare su quello che è la tradizione un po' da cui vengo, anche dalla regione in cui vengo io, che è l'Emilia Romagna, sicuramente con un vino frizzante, quindi può essere da un Lambrusco, un Gortugno vivace, non perché non dimentichiamoci del Pignoletto anche frizzante. Se invece vogliamo accontentare un po' tutti, trovare un vino che si addice un po' a quelle che sono le varie tradizioni, sicuramente io andrei sempre sulla bollicina, estremi sulla Franciacorta, quindi insomma Franciacorta Rosé, magari per fare qualche nome, Monterossa Sansevieria, quindi che è un Blanc de Blanc dell'azienda Monterossa, piuttosto che un Marchesino o un Villa Crespe di Muratori, che fa un cisiolo senza, non dosato, quindi dosato zero, veramente fantastico, di piacevolissimo gusto. Però ci sono altri vini che si addicono, vini, se uno non ama le bollicine, non ama il frizzante, dei buoni vini bianchi sicuramente, un bel verdicchio, perché no, un verdicchio che potrebbe essere l'azienda di Bucci, di Ampelio Bucci, che fa questo verdicchio, non per forza la riserva, anche i vini in base sono ottimi, che richiamano il salato, il marino che si sposa bene col brodo, o se andare sul rosso o un Sangiovese superiore di Romagna come dell'azienda Cesari, o piuttosto un dolcetto d'Alba che può essere di Resse o di Mascarello, quindi vini buoni, piacevoli, non troppo corposi, ma con la loro identità, un loro gusto. In che fascia si può bere bene di prezzo, secondo te? Beh, sicuramente oggi in enoteca, e non ricordiamoci, oggi anche la grande distribuzione è fornita bene, quindi i vari supermercati possono dare dei vini partendo bene dai 6-7 euro in su. Troviamo delle ottime bottiglie, 10-12, quindi troviamo dei vini di ottima qualità. Ecco, abbiamo dimenticato forse che c'è anche qualcuno che mangia asciutto, ad esempio in Piemonte si mangiano gli agnolotti, quindi diciamo che lì la tipologia probabilmente è leggermente diversa. Sì, io con gli agnolotti rimarrei in zona lì, ci sono degli ottimi vitigni, la gente si dimentica, non so, io l'altro giorno ho bevuto un'ottima fresa della famiglia Coppo, degli ottimi grignolini, questi vini che sono, tra virgolette, con spessore inferiore non a livello gustativo ma a livello di conoscenza e di nome rispetto alla gente normale, però sono grandi vini che si addice bene con quella tipologia di piatti. Ecco, ma abbiamo con noi Teo Musso della birreria Baladene e di tantissime altre cose, perché Teo è moltissime cose. Buongiorno Teo. Buongiorno a tutti voi. Buon Natale Teo. Buon Natale anche a voi. Senti Teo, beh, cosa fai? Assaggi i tuoi piatti con la birra o col vino? Ahimè, ho tradito il mondo del vino già da tanto tempo, nonostante che sono nelle Langhe, quindi con la birra. Con la birra. E diciamo gli agnolotti con quale birra l'accosti? Beh, allora direi che ci vuole una birra che abbia una nota di luppolo o una nota speziata, che mantenga la delicatezza per non andarsi a sovrapporre, no, al gusto dell'agnolotto, ma che vada a dare una nota di speziatura o diciamo di erbaceo, no, che vada elegantemente ad accoppiare. Ecco, diciamo che la grande novità, credo, per i nostri radioascoltatori, noi non ne abbiamo mai parlato, però credo che il pubblico italiano conosca veramente poco, un fenomeno che mi sembra che quest'anno stia veramente prendendo corpo, e sono contento di poterlo raccontare appunto da Radio 24. Sono le birre di Natale. Ecco, ci vuoi spiegare tu cosa sono le birre di Natale? Un'azione che ha una lunga storia. Nascono, di solito sono caratterizzate da una gradazione più alta e nella più parte dei casi da note che sono tostate, quindi da colorazione un pochettino più intensa, e mediamente con note di speziatura volutamente ricercate dalla fermentazione oppure dall'aggiunta di spezie. Quindi stiamo parlando di birre che si aggirano mediamente dai 7 ai 10 gradi alcolici, no? Quindi con struttura più importante e normalmente con note tostate. Quindi hanno questa peculiarità, ma questo fenomeno, tu che sei anche un grande osservatore, sta prendendo piede anche in Italia, mi sembra di capire. Ma diciamo che al seguito di quello che è l'interesse generale, che sicuramente si è alzato in modo abbastanza importante negli ultimi 3 anni nei confronti del mondo della birra, e quindi l'attenzione si è proprio sviluppata molto da parte di un pubblico più ampio, cioè, di conseguenza anche questo, diciamo, questa nicchia delle birre di Natale che però incuriosisce, perché è una birra per un evento, no? Cosa che normalmente nel mondo del vino non esiste, no? Certo, io tra l'altro voglio ricordarti che ho una tua birra di Natale al cioccolato del 2006. Sì, noi siamo, cioè, diciamo, la nostra Noël Baladin, no? È una birra che ogni anno interpretiamo giocando, no, su un altro elemento, che può essere, nel caso del 2006 era il cacao, no? Quest'anno ad esempio abbiamo fatto un'infusione di vaniglia del Madagascar nella birra, quindi abbiamo giocato sulla vaniglia. L'anno prima abbiamo giocato con il caffè di Leonardo Lelli, cioè sempre alla ricerca di materie prime di altissimo livello, no, su cui andare a giocare come sfumatura aromatica, diciamo, di speziatura o di nota aromatica aggiunta su questa birra di struttura importante che fa 9 gradi. Bene, rimani con noi perché voglio continuare anche con il nostro amico Gardini a parlare di vino e tornare alle bollicine, perché sicuramente le bollicine sono sempre viste come il vino della festa, quindi diciamo che c'è una tradizione. Bene, in Italia parliamo sempre giustamente di Franciacorta, ma ci sono tantissime altre aree importanti, anche al sud ci sono degli ottimi vini con le bollicine. Beh, sì, sicuramente la Franciacorta, come dico sempre, è il cuore della spumantistica italiana, ma da nord a sud, toccando la parte del Trento Doc, all'Oltrepò Pavese, all'Alta Langa, poi produttori al sud da Feu di San Gregorio, da Tasca del Merita che fanno questi metodo classici, e non solo, tanti altri, da Garofoli nelle Marche che fanno questi metodo classici, da, in questo caso Garofoli fa questo verdicchio sfumante che lo trovo estremamente gustoso, perché richiama quelle sferzate saline e mediterranee del mare, iodate, quindi chiamo molto. Sicuramente la Franciacorta è quella che porta avanti questo filone, anche se a volte si tende troppo a conciliare il concetto di Franciacorta solo quello che è la zona del Bresciano e la Lombardia. Quando vai all'estero ancora oggi purtroppo si confondono Franciacorta con Prosecco. Bene, questo è vero, cioè diciamo che il Prosecco, ho visto anche gli ultimi dati, ha un successo inarrestabile nel mondo. Prosecco inarrestabile prima di tutto perché non è perché si chiama Prosecco o non fa il metodo classico, non vuol dire che non è grande vino. Sono dei Prosecco oggi che sono buonissimi. Adesso ho stato di recente l'Extra Dry dell'azienda Bisol, l'ultima annata, sono rimasto estremamente sorpreso. È ovvio, bisogna cominciare a pensare che il Prosecco è un vino, che è un grande vino in una determinata zona e di quello stile, che il Franciacorto, gli spumanti italiani sono altri vini. Non si può sempre fare anche oggi, ancora oggi nel 2012 che sarà poi 2013, a farci la guerra in casa, cioè dobbiamo aiutarci. Beh, non dimentichiamoci anche il Trentino e c'è l'Oltrepò Pavese. Sì, come dicevo prima, c'è l'Oltrepò Pavese, l'Alta Langa anche, cioè l'Alta Langa da Fontana Fredda, tantissimi altri produttori fanno degli Alta Langa notevoli. Poi dopo parleremo anche di champagne, perché è giusto anche ricordare, anche se non è un vino italiano, ma credo che in questo periodo sia un vino molto ma molto gettonato, magari non quelli di altissimo prezzo visto i tempi che corrono, ma sicuramente ci sono anche degli champagne, e poi lo vedremo con Luca, secondo me interessanti. Io voglio tornare a Teo Musso per chiedergli se secondo lui è possibile fare un pranzo, diciamo, alternando invece dei vini le varie birre, se questo è possibile, se ci può essere una gradazione di profumi e di sapori che permette questo. Beh, allora ti rispondo sicuramente sì, è una cosa che io porto avanti da tanti anni dentro Casa Baladén, cambiando menù ogni mese, quindi abbiamo sperimentato veramente centinaia di abbinamenti. Quello che secondo me va detto, no, è che il modo di rapportarsi del vino all'abbinamento e della birra all'abbinamento, al rapporto col piatto, è molto diverso. Molto diverso perché la birra ha una, se vogliamo definirla in questo modo, una sua trasparenza, anche se non nel prodotto stesso, no, se parliamo di birre artigianali, ma una sua trasparenza di gusto, no, che va ad avvicinarsi al piatto in un modo diverso, cioè invece che creare un incontro, uno scontro, no, va a sovrapporre dei sapori in modo più trasparente a quello che è il piatto stesso. A oggi, secondo me, l'Italia, che è diventato uno dei, diciamo, forse delle punte di diamante del mondo a livello di produzione e di differenziazione del prodotto birra artigianale, oggi contiamo oltre 2000 etichette di birra artigianale, quindi con migliaia di sfumature diverse del gusto, senza ombra di dubbio si è in grado di andare ad affiancare qualsiasi tipologia di cibo, no? In un modo diverso dal vino. Senti, anche diciamo i dolci? Beh, sicuramente anche i dolci, perché esistono birre, cioè io ad esempio faccio una linea che si chiama Cantina Baladén, dove ci sono 5 birre diverse che hanno una struttura zuccherina di residuo zuccherino e una struttura alcolica importante, che possono andare con sfumature di aromi completamente diverse, no, ad affiancare dolci senza problemi, no? Senza problemi. Dal cioccolato, che è uno dei miei cavalli di battaglia, cioè nel linguaggio trasmesso proprio del legame tra la birra e il cibo, no? Ma proprio a dolci stessi, no? e anche versioni secondo me molto originali di birra alla frutta, che comunque in Italia adesso c'è sul panorama, ce ne sono parecchie, possono essere interessanti su, su gelati o su dolci non estremamente dolci, no? Bene, Teo, rimani ancora un momento con noi, io voglio passare a Luca a parlare di champagne, voglio chiedere se con un prezzo giusto, diciamo a livello dei nostri, vini spumanti o dei nostri Franciacorta di OCG, si può bere dell'ottimo champagne senza fare appunto delle follie con i grandi, che sono sempre i soliti 4-5, che sicuramente compaiono in questo periodo nelle tavole degli italiani, perché o sono regali o è un regalo che si fa, oppure magari perché veramente qualcuno vuole fare alla grande le feste. Beh, sicuramente non dobbiamo dimenticarti dello champagne, come dicevi tu prima, perché è dove è nata lì il metodo champenoise, quindi grande patria delle bollicine mondiali. Devo dire che oggi troviamo champagne di grandissima qualità a prezzo veramente favorevole, che non costano molti. Guardi, di recente ho provato uno champagne che non conoscevo, proprio 2 settimane fa, un Blanc de Blanc del 2002 di Marguerite Guyot, con un rapporto qualità-prezzo lo trovi in enoteca intorno ai 50-48 euro a seconda poi dove lo vai a prendere, comunque il range dai 47 ai 55, di un'eleganza, di una freschezza, di una sapidità veramente notevole. Quindi devo dire che anche su quello lo champagne, sono i produttori di champagne sono veramente avanti. Ma tu festeggerai l'ultimo dell'anno con uno champagne o con un prodotto italiano? Con l'Ambrusco. Con l'Ambrusco. Io 2013 per me vedo l'Ambrusco. Poi ovvio, se devo festeggiare, che non è però solo una bottiglia, sicuramente Franciacorta. Franciacorta perché io credo molto nella Franciacorta, amo lo champagne, però la Franciacorta credo molto, penso che abbia bisogno di un sostegno nell'andare avanti in questa direzione, quindi sicuramente Luca Gardini, da buon portabandiera del vino italiano nel mondo, Franciacorta lo berrà sia a Natale che a Capodanno. Teo, tu invece brindi con birra? Io brindo con birra, non posso tradirmi. E c'è una birra particolare proprio da festeggiamento? Beh, guarda, allora, al di là della Noël, che è sicuramente dedicata a questo periodo, io se dovessi scegliere una birra per festeggiare il Capodanno, sceglierei Elisir, che è una birra che si avvicina come concetto a uno champagne, no? Cioè nel senso che è una birra più secca e più strutturata, no? Quindi anche si può festeggiare anche con la birra, e tu non tradisci la birra neppure a Natale e all'ultimo dell'anno? No, no, con questo non voglio dire che non bevo vino, assolutamente lo bevo, però nei momenti di festa devo sostenere il mio pensiero fino in fondo, ma forse se devo dire la verità, faccio ancora un'opzione, visto che quest'anno è il secondo anno di birra 100% italiana della nostra nazionale, forse come augurio anche per la nazione festeggerò il Capodanno con una nazionale. Ah, bene, benissimo. E allora ti voglio chiedere un'ultima cosa, perché abbiamo parlato di tanti piatti natalizi, però diciamo l'ultimo dell'anno c'è anche il capitone, quindi c'è molti che festeggiano col pesce, e anche qui abbiamo una birra molto particolare. Beh, allora, sul pesce secondo me si può giocare con due fronti, no? Il fronte delle birre leggere, come possono essere le birre bianche, no? Che hanno sfumature o agrumate o note comunque di frutta molto intensa, oppure secondo me sulle saison, no? Le saison che sono invece estremamente secche, no? Dove la secchezza è data, cioè, nonostante la gradazione normalmente molto bassa, da una nota di pepe o da note di speziature che possono essere assolutamente interessanti, proprio pensate vicino a un pesce, no? Gardini, tu non abbiamo parlato appunto di pesce, non abbiamo parlato di capitone, di altri pesci che sono sicuramente all'ordine del giorno in questo periodo. Beh, sicuramente i grandi bianchi che l'Italia è piena di grandi bianchi, non citiamo sempre i soliti valdetesini e friulani, ma andiamo un po' su quelle regioni che a volte si tende a parlare di meno, la Campania, i grandi Fiano, i grandi Greco. Ho assaggiato di recente un caucino, che è un prodotto un greco di Benevento, dell'azienda Oppi da Minea, che fa veramente notevole, un vino bianco che è capace anche di evolvere, perché torniamo sulle isole, no? Andiamo a scoprire quelli che sono i Veventini Sardi o i Pigati Liguri, che ci dimentichiamo di questi, ma grandi vini bianchi bianchi, senza dimenticare i friulani, che quelli, gli altoatesini, che sono quelli che ci vedono nel panorama del vino bianco italiano. Beh, io devo dire che devo aggiungere un rosso, perché secondo me ci sono anche dei rossi che vanno molto bene col pesce. E io ho uno che adoro, che non se ne parla quasi mai, sembra un vino sconosciuto, ma in realtà è ottimo, è il Rossese di Dolceacqua. Io lo trovo servito fresco, lo trovo veramente con un vino eccellente da abbinare ai pesci, ovviamente da dove c'è pomodoro, da dove c'è intingolo, non si può abbinare a una sogliola ovviamente, però un capitone secondo me va molto bene. Bene, io ringrazio Teo Musso e Luca Gardini, vi faccio gli auguri appunto ancora una volta di Buon Natale e anche di un felice anno nuovo, e vi ringrazio. Il gastronauta. I don't want a lot for Christmas. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is Natale, buon Natale a tutti cari radioascoltatori di Radio 24. Ebbene, sono già le 12:30 e voi siete già quasi a tavola, ma forse qualcuno di voi è anche a messa, quindi abbiamo ancora tempo per darvi dei consigli di come abbinare i vostri piatti, e appunto di consigliarvi anche, magari c'è ancora qualcosa di aperto dove potrete correre a comprare qualche bottiglia, e magari se avete già pronto i vostri vini vi possiamo anche così consigliare come servirli. Per esempio, come va con, diciamo, va servito un grande vino rosso, perché un tempo si serviva a 18 e più gradi, c'era scritto dietro a temperatura ambiente, ma la temperatura ambiente era ben altra cosa di quella che oggi negli appartamenti dove si vive magari c'è molto più caldo, per cui attenzione a usare, diciamo, queste regole del passato, perché potreste veramente rovinare un grande rosso, un Barolo piuttosto che un Barbaresco, un Brunello di Montalcino o tanti altri vini importanti anche non italiani, quindi attenzione. Allora, io ho con noi ora io non lo chiamerei sommelier, perché secondo me è più un suggeritore di vino, un suggeritore di accostamenti, un suggeritore di sapori, il Giuseppe Palmieri dell'Osteria della Francescana di Modena. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti e buon Natale a tutti. Senti Giuseppe, ma il tuo pranzo di Natale com'è? Il mio pranzo di Natale sarà un pranzo in famiglia con mia moglie, con la nostra cagnolina, i nostri porcellini peruviani, e sarà un pranzo che è più classico non si può. Ma chi fa da mangiare, tua moglie? Ma è una commistione di in cui partecipano tutti, io stesso mi prendo la libertà e soprattutto il rischio di pensare a preparare un bel brodo, i tortellini devono essere necessariamente i tortellini più buoni, e abbiamo pensato a dei tortellini fatti da delle signore di Mirandola che hanno fatto un quantitativo enorme di tortellini donati in beneficenza, comprati da tutti quelli che volevano dare un piccolo contributo per i terremotati che devono essere sostenuti in un giorno di festa. È una grande fetta di un grandissimo cotechino, una grande mostarda. Scommetto che il cotechino tu l'hai comprato a Serra Mazzoni. Il grandissimo Regnani, l'ultimo, uno dei pochi baluardi del fresco, il cotechino fresco, capolavoro. Ecco, allora, ma io prima di arrivare ai vini ti voglio anche chiedere questo, tu sei nato in Basilicata, anche se ormai da tanti anni vivi a Modena, cosa hai portato del tuo Natale basilisco a Modena? C'è un pezzo della mia vita, un pezzo della mia esperienza, un pezzo del mio cuore, che è l'agnello, e quindi quello è un per me è un punto di riferimento immancabile tutti gli anni. Allora, vediamo cosa ti sei preparato tra i vini. Cominciamo ad aprirli. Allora, io ho cercato di fare una riflessione, insomma, a mio parere, insomma, importante, perché è una fase delicatissima, no, per il nostro paese. Viviamo una grande crisi che a mio parere è una grande crisi soprattutto di valori e quindi di conseguenza una crisi economica. Dobbiamo avere il coraggio adesso di investire in un momento in cui tutti disinvestono, e quindi io ho puntato con tutte le mie forze sulla Franciacorta, ma alla Franciacorta ho affiancato anche, no, Valdobbiade nel Prosecco, perché dobbiamo avere poi la forza di non dividerci, siamo troppo bravi a dividerci in Italia. Io ho fatto un gesto in famiglia per unire, e quindi ho pensato a una persona per me importante alla quale tutti dobbiamo riconoscere il merito di fare grande l'Italia nel mondo, che è Maurizio Zanella, e bevo una grande annata di Anna Maria Clementi. E poi con grande modestia ho guardato a quello che è un grande vino di Valdobbiadene, ad un ragazzo che ha fatto una scelta di vita, che sta facendo ricerca, sta facendo avanguardia, quindi sta rischiando, che è Luca Ferraro, con Col Fondo. Sono prosecchi che portano i loro lieviti, e io con grande piacere ho messo di fianco, con la stessa importanza e valore uguale, Valdobbiadene e la Franciacorta, i due vini frizzanti più importanti che abbiamo in Italia, ma chiuderò con Modena, Bonporto, Christian Bellei, più grande vinificatore, spumantizzatore di Modena, e berrò Mattaglio Rosé, 100% uve di Lambrusco. Ecco, noi ti interrompo un secondo, perché prima abbiamo avuto un tuo, io lo chiamo un collega, è un amico anche, Luca Cardini, che anche lui ha citato il Prosecco. Ebbene, tu citi il Prosecco, voi due siete due passate per due grandissimi palati, due grandissimi conoscitori dei vini. Eppure molte volte, quando si parla tuttora del Prosecco, c'è qualcuno che storce un po' la bocca. Sì, è normale, viviamo nel paese. Io ricordo una vacanza zona del lago Trasimeno con la mia famiglia, e è rimasta scolpita nella mia memoria un'insegna che dava l'indicazione in un posto che era una torre medievale, o meglio erano due, una di fianco all'altro, e le due torri portavano in un luogo che si chiamava Beccati questo e Beccati quest'altro. Erano due signorotti del Medioevo che per una vita si sono lanciati contro pietre e pere. Ve l'ho detto prima, è un paese straordinariamente capace a dividersi, quindi abbiamo un piglio diverso, no? Io sono rimasto scioccato dalle parole di Obama, che qualche giorno fa, in un momento di crisi incredibile, di fronte a migliaia di disoccupati, li ha guardati e gli ha detto: "For the United States of America, the best is yet to come." E la gente in lacrime ha applaudito. Il meglio deve venire, e dobbiamo dirlo adesso, in un momento così drammatico, e quindi dobbiamo sostenere il Prosecco e la Franciacorta e il Trento DOC e Modena. Sono la nostra ricchezza, ecco, sono un patrimonio incredibile. Scendiamo e andiamo al resto dei piatti. Hai parlato di agnello, quindi andiamo su rossi qui. Io berrò, ho un'idea tutta mia, un punto di vista molto molto personale, spero di non turbare il buon senso di nessuno, ma io vi racconto quello che è il mio percorso. Io parto con un bicchiere, come vi ho raccontato, di vino spumante, e poi taglio subito due fetti di cotechino, mangio il cotechino con un po' di mostarda e bevo un bicchiere di Picolit. No? Io ho una grande attenzione, un grande interesse per i contrasti, mi fanno impazzire, perché i grandi contrasti, se pensati nella maniera giusta, poi chiudono con grande armonia. E bevo il Picolit di Marco Sara, un ragazzo di Savorniano, in provincia di Udine, che ha restaurato l'idea di Picolit troppo grasso, troppo dolce, troppo statico, e ne è venuto fuori un vino fresco, dinamico. Quindi questo, no, ho portato in cantina l'idea di dolce salato, no? Che in tanti stanno sviluppando, come Massimo e i ragazzi dell'Osteria Francescana, che è diventato il dolce e il secco, no? Quindi parto in questa maniera. Poi mangio un grande tortellino e ho voglia di bere un grande bianco italiano, di estrazione aranciata contemporanea e bevo la ribolla di Damian Podversic e poi con l'agnello faccio una scelta di cuore, bevo un grande rosso italiano e bevo il metodo Cadrega, la croatina di Walter Massa, la zona più considerata, torto, meno prestigiosa, non più povera, del Piemonte, che è il sud, che sta iniziando un percorso incredibile con questi vini autentici, veri, rassicuranti, potenti, di grande italianità. E poi io a questo punto ti chiedo alcune note di servizio che sono importanti per i nostri radioascoltatori. La temperatura di servizio, ecco, tu hai parlato di un grande Franciacorta, hai parlato del Prosecco, secondo te queste bollicine a quanto devono essere servite? Io voglio toccare un tasto che alcune volte mi preoccupa, no? Pare sia necessario, faccia figo bere i vini frizzanti non troppo freddi. Io voglio bere un grande vino frizzante molto freddo, perché molto freddo vuol dire velocità, vuol dire convivialità, vuol dire godibilità, vuol dire anche incentivare un po' i consumi, no? Ma non va guardato anche quel lato lì, perché la tavola è anche quello, no? Bere anche volentieri sempre meno, sempre meglio, un bicchiere in più se è festa, e un vino frizzante va bevuto molto freddo. Un vino rosso hai portato un contenuto importantissimo. I vini rossi non si possono bere ad una temperatura troppo alta, perché la parte alcolica inibisce la piacevolezza. Abbassando la temperatura di servizio si inibisce la parte alcolica e il vino diventa più accessibile, no? È un po' come resiste ancora il baluardo del superalcolico riscaldato, no? Che sia una grappa o un cognac. Io vi consiglio invece di abbassare la temperatura, perché riuscirete a infilare il naso del bicchiere, a percepirne quelle che sono le caratteristiche, le qualità, vedetela come vi pare, e a berlo in maniera molto molto più piacevole. Ecco, allora ti voglio chiedere una cosa che credo possa servire appunto a chi è in ascolto. Tu hai parlato di cotechino con mostarda e hai detto beviamo un picolit, ma se il cotechino fosse servito col purè? Penso che molti dei nostri radioascoltatori o lo zampone se lo servono o con le erbe o col purè. Ecco, sì. Qui non andiamo più su un contrasto così forte, ma probabilmente andiamo su un qualcosa che pulisca la bocca dal grasso. Sì, assolutamente. Io, mi viene in mente, mentre tu mi parlavi di purè, mentre tu mi parlavi di cotechino, mentre mi parlavi di erbe, a me è venuta voglia di bere un Trebbiano d'Abruzzo di Valentini. Un vino che ha... che guarda al passato, che ha uno sguardo al passato, ma senza essere nostalgico. Probabilmente il più grande bianco d'Italia. Lo dico perché poi dobbiamo, no, avere la forza e il coraggio di rendere omaggio ad una persona straordinaria che non c'è più, che è il signor Edoardo Valentini, e che per fortuna adesso si riflette in quello che è suo figlio, che è Francesco. E quindi perché no? Io mi associo, perché ritengo appunto il Trebbiano di Valentini il più grande vino bianco italiano, quindi mi associo. Come l'ultima battuta la vorrei sul finale, sul panettone, perché non può mancare il panettone. Lo beviamo, lo mangiamo così o ci accostiamo a qualcosa? Io avrei voglia di mangiare un grande panettone. E aprirò per l'occasione due panettoni. Uno è il panettone di Mazzini, grande artigiano di Argenta, Ferrara, la scuola di Corelli. Certo. Un baluardo che ha partorito tra i migliori chef che dalla fine degli anni 90 a oggi continuano a far mangiare bene gli italiani. E aprirò il panettone che mi ha regalato Massimiliana Laimo. E io berrò volentieri, perché è un gesto che faccio con grandissimo amore, con grandissimo desiderio, un bicchiere di Lambrusco. Bene. E un bicchiere di Graspa Rossa, e lo farò provocatoriamente, perché amo Sorbara e anche lì voglio che la si smetta di dividersi, e voglio che Sorbara e il Graspa Rossa comincino ad andare a braccetto per fare grande il Lambrusco. Grazie Giuseppe, ti chiedo solo se vuoi rimanere ancora in linea con noi, perché parleremo di birra e so che tu sei molto sensibile a questo. Volentieri. Se puoi rimanere, benissimo. Volentieri. Benissimo. Allora, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Il gastronauta. baby, slip a sable under the tree for me. Di nuovo buon Natale a tutti i gastronauti e a tutti i radioascoltatori. Ebbene, ormai diciamo che molti saranno già seduti a tavola e i nostri consigli possono arrivare un po' tardi, ma potete semplicemente recuperare stasera e poi anche domani. E io vi ricordo una cosa secondo me importante: gli avanzi delle feste non si buttano, si riciclano, e ci sono molti modi per non buttare, sono molti modi di, diciamo, di recuperare con dei piatti di fantasia. Ci sono anche tanti libri, c'è un libro vecchissimo di Olindo Guerrini, poeta verista romagnolo, detto lo Stecchetti, che tanti anni fa ha scritto Gli Avanzi, i ricettari sugli avanzi, un libro straordinario anche come è stato scritto. Quindi mi raccomando, non buttate, non sprecate. E certo, i vini e le birre che berrete a Natale sicuramente si possono bere il giorno dopo, si possono bere alla sera stessa. Quindi cercate di, non dico di fare un Natale diciamo povero oppure magari ristretto, ma cercate di fare un Natale proprio all'insegna di quello che sarà il 2013, sarà un anno difficile, e quindi cominciamo ora. Ma io non vi voglio portare tristezza ora che siete a tavola, anzi voglio portare allegria, vi voglio parlare di vino, vi voglio parlare di bollicine, vi voglio parlare anche di birre, sì, perché ormai la birra, soprattutto quella artigianale, è entrata nella nostra vita di tutti i giorni, e addirittura a Natale esistono le birre di Natale. E allora io chiedo a Walter Loverier, che è del birrificio Lover Beer di Marentino, in provincia di Torino, di spiegarci perché esistono le birre di Natale, da dove arrivano, quale Babbo Natale le ha portate, Walter. Buon Natale a tutti, sono Walter Loverier del birrificio Lover Beer di Marentino. Allora, che dire delle birre di Natale? Le birre di Natale nascono nel nord Europa qualche secolo fa come tradizione per accompagnare un po' il periodo dell'Avvento, ma principalmente nascono in Belgio, dove i birrifici, che erano presenti più di uno in tutti i villaggi, facevano una birra sia per la famiglia, poi dopo un po' hanno anche iniziato a fare la birra per i loro migliori clienti, e quindi era il modo migliore per fare gli auguri. Quindi la birra di Natale alla fine poi è una birra speciale che il birrificio crea proprio per l'occasione delle feste. Quindi ecco che un po', diciamo, la birra di Natale spesso viene definita un po' come uno stile, ma in realtà non è un vero stile. Molti birrifici fanno delle birre che magari non hanno una speziatura tipica del Natale, invece magari altri, come tradizione fiamminga, proprio utilizzano quelle spezie che tipicamente si trovano nei dolci di Natale, e quindi cannella, zenzero. E allora io le chiedo subito questo: si può accostare una di queste birre con il panettone? Ma io direi senz'altro di sì. È chiaro che i veri esperti non sono i birrai negli abbinamenti. I birrai sono quelli che creano la birra e cercano di emozionare con la propria birra. Dopodiché ci sono gli chef, ci sono i gourmand, ci sono persone che, sommelier, che loro studiano quelli che sono gli abbinamenti migliori. Il mio consiglio personale dipende molto appunto dalla birra che si ha. Se, esempio, noi facciamo una birra di Natale che utilizza quattro spezie tipiche del vin brûlé, quindi abbiamo una birra che già di per sé è una birra particolare, la nostra base, perché usiamo anche l'uva fresa in particolare, e la nostra Renna Glue in pratica ha le quattro spezie che dicevo prima del vin brûlé, che si può anche addirittura fare calda, quindi come avviene per il vin brûlé, si può scaldare a 70 gradi e abbinare con cioccolato senz'altro, ma perché no anche col panettone, in quanto il panettone tipicamente ha anche... ci può essere anche il panettone al cioccolato. Ma guardi, lo chiediamo, lei ha tirato in ballo appunto i grandi esperti di accostamenti. Ne abbiamo uno con noi, che è Giuseppe Palmieri dell'Osteria della Francescana, che tra l'altro quando consiglia al ristorante appunto i suoi commensali, spesso inserisce delle birre. Allora Giuseppe, tu cosa ne pensi del panettone? Buongiorno a tutti ancora, buon Natale a tutti. Mentre vi ascoltavo, mi è venuta in mente un'idea che con tutta la sincerità e la modestia del caso, questo è un segnale importante, diamo il buon esempio perché ce n'è bisogno, mi ha portato ad una conclusione. Birra di Natale, io ne ho una straordinaria, si chiama Invernale, fatta solo in Magnum dal microbirrificio Beltane, ma guardando a quello che è la tradizione del grande nord d'Europa, penso all'Irlanda, le grandi ostriche, le grasse ostriche della Gran Bretagna, che nell'accezione popolare la classe operaia mangia a fine giornata bevendo della Guinness. Allora, mi piacerebbe mangiare delle grandissime ostriche e bere una grande birra di Natale, no? Speziata, fredda, di grande complessità, questo forte contrasto tra il mare, no? E le spezie, la parte amara, questa potrebbe essere una soluzione. Tornando al panettone, pensando alla birra, il cioccolato, Massimiliano Laimo, le calandre, il nostro grande amico Massimiliano, fa un panettone straordinario, che è un panettone per le feste, a base di cioccolato, lievitato nell'impasto anche l'olio extravergine di oliva, grande italianità, e le nocciole. Una birra di Natale sarebbe straordinaria. Bene, hai dato due soluzioni, Giuseppe, molto interessanti. Io torno a Walter per chiedere, Walter, lei appunto sta andando a pranzo, ma il suo pranzo di Natale come sarà? Beh, il mio pranzo di Natale sarà ricco soprattutto della presenza dei familiari, ricco del stare insieme, e poi diciamo che ci siamo abituati bene purtroppo o per fortuna, e quindi non ci faremo mancare qualcosa di particolare, qualcosa di emozionante. Siamo vino o birra? ma probabilmente vino, per cambiare un po' i 365 giorni di birra, un giorno il vino, visto che poi io tra l'altro faccio un prodotto che ha molto rispetto in quello che è il vino, mi trovo in Piemonte e mi piace usare l'uva, mi piace usare il legno così come lo usano diciamo per produrre vino, e quindi sicuramente penso che lei, se non erro, fa birre barricate anche. Sì, uso legno sia per la fermentazione principale, quindi dei tini molto grandi, sia diciamo per l'affinamento delle barrique, e quindi alcune tipologie di birra, perché mi piace diciamo affinarle per un tempo molto lungo, utilizzo appunto la barrique. Ecco, questi affinamenti lunghi portano a birre che in un certo senso possono sostituire i rossi, i grandi vini rossi? No, credo che possano essere complementari, possono coprire laddove i vini rossi non, per motivi vari non ci arrivano. A volte diciamo la struttura di un vino rosso mi permette, faccio un esempio, di abbinarmi magari alla selvaggina, invece magari ricorro a un bianco se è una situazione diciamo più delicata. La birra secondo me copre ha la possibilità di spaziare a 360 gradi, in quanto è un prodotto che il birraio realizza secondo una ricetta, e quindi ha più possibilità di più manopoline, ecco, per creare il suo prodotto, a differenza diciamo di un grande viticoltore, di un grande produttore di vino che fa prima di tutto il suo vino nella vigna e dopo in cantina. Abbiamo parlato del nord Europa, quindi abbiamo sentito Irlanda ed altro, e lei magari che conosce queste tradizioni, cioè il Natale in quei paesi, cioè la birra viene utilizzata molto anche nei pranzi diciamo importanti, quelli di Natale dell'ultimo dell'anno? Sì, diciamo che è abbastanza tipico che la birra viene accompagnata nei ristoranti che hanno diciamo questa capacità di utilizzare le birre, che hanno conservato questa tradizione senza lasciarsi sedurre completamente dal mondo del vino, e quindi ancora oggi ci sono impieghi della birra, magari non propriamente la birra di Natale. La birra di Natale secondo me, come concepita oggi, è disponibile alla spina in quasi tutti i locali del nord, e soprattutto nel periodo dell'Avvento, quindi dall'8 fino diciamo fino al Capodanno, ecco, più o meno, fino al Natale in ogni caso, dove ci si ritrova e si beve questa birra che ha queste caratteristiche diverse rispetto a quello che invece viene proposto durante tutto l'anno, proprio per queste speziature, come le dicevo. Invece magari il giorno di Natale, se si utilizza la birra, si spazia un po' in tutte quelle che sono le birre disponibili. Bene, io ringrazio Giuseppe Palmieri, grazie tante Giuseppe, ti grazie auguro buon Natale di nuovo. Walter Loverier del birrificio Lover Beer, anche a lei auguro un buonissimo Natale e così, grazie a voi. Così come lo auguro a tutti i nostri radioascoltatori che abbiamo magari disturbato ora nell'ultima parte del pranzo, ma abbiamo cercato di darvi dei consigli che non fossero solo limitati al vino, perché non tutti, diciamo, bevono vino. Certo, non abbiamo pensato di fare delle degustazioni di acqua, perché credo che questo magari lo sappiate fare molto meglio voi di noi che ci occupiamo spesso di enogastronomia. E quindi anche la birra ha cominciato ad avere così un suo perché anche sul mercato nazionale, specialmente da parte dei giovani. Quindi io a questo punto, diciamo, anch'io andrò a pranzo e mangerò come tutti un buon brodo con i tortellini e magari berrò le bollicine, non vi dico quali perché non voglio fare pubblicità a questo punto, ma vi dirò che nel mio pranzo ci sarà sicuramente anche il lambrusco oltre le bollicine, che poi siano italiane o francesi, beh, potrebbero essere anche tutte e due, magari per fare un confronto come sempre succede. A questo punto vi auguro di nuovo un buon Natale, vi do appuntamento anche prossimamente perché saremo sempre con voi anche il primo dell'anno e quindi vi daremo anche dei consigli di quello che oggi non riuscirete a mangiare, come riciclarlo e come riproporlo. Avremo tanti cuochi, tanti esperti che di ogni piatto vi diranno come poterlo riciclare. Quindi non mi rimane che di nuovo dirvi buon Natale a tutti, gastronauti e non gastronauti, e ai nostri radioascoltatori da Davide Paolini.